24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra. In primo piano in questa edizione di 24 ore in Europa le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sul debito dell'Unione Europea, le nuove misure della Commissione contro la disoccupazione in Europa e l'approvazione in Italia del documento di economia e finanza. In apertura dunque l'analisi del Fondo Monetario Internazionale. La fase più acuta della crisi sembra passata, ma i debiti elevati restano una condizione cronica pericolosa. L'FMI considera non abbastanza gli sforzi politici fatti per una duratura stabilità finanziaria in Europa e altrove. All'interno dell'Unione il Fondo individua differenze significative sul debito. In Irlanda e Spagna pesa il debito privato, in Italia e Giappone scrive: l'elevato debito pubblico è bilanciato da solidi bilanci delle famiglie. Quanto alle banche, secondo le stime del Fondo Monetario, le 58 più grandi basate nell'Unione Europea potrebbero ridurre i propri bilanci di 2.600 miliardi di dollari o del 7% degli asset totali entro la fine del 2013. Quanto ai tassi di interesse, dovrebbero restare alti fino al 2016. E proprio le banche tremano in borsa, con Italia e Spagna soprattutto sotto pressione. Le borse europee hanno chiuso la seduta in negativo dopo il rally della vigilia, con la Spagna che torna a preoccupare i mercati in attesa domani dell'asta chiave dei titoli di Stato. I listini più penalizzati sono stati Milano, in calo del 2,4%, e Madrid, meno 4% circa, che hanno risentito soprattutto dell'andamento negativo delle banche in ribasso di oltre il 2% in Europa. A Piazza Affari il Banco Popolare, Unicredit, Intesa San Paolo e BPR hanno perso il 5% circa. Sul paniere principale la peggiore è stata però A2A, che ha ceduto oltre il 5%. Il titolo ha risentito della decisione di Moody's di mettere sotto osservazione il rating per un possibile declassamento. Giù ancora Fiat, meno 4,4% all'indomani dei dati negativi sulle matricolazioni, mentre Fiat Industrial ha limitato le perdite cedendo il 2% in attesa del CDA del 25 aprile, che approverà i conti del primo trimestre. Ha resistito alle vendite Campari, in rialzo dello 0,85% grazie alla buona intonazione del settore. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. E la Spagna è protagonista di un braccio di ferro con l'Argentina. La presidente tira dritto sull'esproprio del 51% della compagnia YPF e avverte: non siamo disposti a pagare i 10.000 milioni di dollari chiesti da Repsol. E la Commissione europea fa sapere che appoggia totalmente la Spagna e chiede al governo argentino di rispettare i suoi impegni internazionali. Inoltre Strasburgo lancia un appello a che Buenos Aires rispetti il trattato bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti sottoscritto da Argentina e Spagna il 3 ottobre 1991. Secondo fonti spagnole, Madrid sarebbe pronta a chiedere che l'Unione Europea presenti un reclamo alla WTO contro l'Argentina. La disoccupazione affligge l'Europa. La Commissione presenta nuove misure per la ripresa nello spazio dell'Unione. Mentre nell'UE la disoccupazione raggiunge livelli da record e le previsioni restano poco incoraggianti, la Commissione presenta un insieme di misure per dare impulso all'occupazione. La proposta è incentrata sulla domanda di posti di lavoro e definisce modalità all'indirizzo degli Stati membri per incoraggiare le assunzioni, riducendo gli oneri fiscali che gravano sul lavoro o dando un maggiore sostegno agli avvii di nuove imprese. La proposta identifica anche gli ambiti che presentano le migliori prospettive occupazionali per il futuro: l'economia ecocompatibile, i servizi sanitari e le telecomunicazioni. La comunicazione ribadisce la necessità di una più forte dimensione occupazionale e sociale nella governance UE e delinea nuove strategie per coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nella definizione delle priorità dell'Unione. Presentando il pacchetto a Strasburgo, Laszlo Andor, commissario UE responsabile per occupazione, affari sociali e inclusione, ha affermato: i livelli attuali di disoccupazione nell'UE sono drammatici e inaccettabili. La creazione di posti di lavoro deve diventare un'effettiva priorità europea. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Andiamo ora in Italia, dove il Consiglio dei Ministri approva il documento di economia e finanza. Le stime per la crescita, le preoccupazioni per le famiglie e le sollecitazioni per una riforma della politica sono stati i punti cardine indicati dal Premier nella relazione di accompagno, così il Presidente del Consiglio Mario Monti. E se Palazzo Chigi promette tasse più basse con la lotta all'evasione, dalla CGIL il segretario Susanna Camusso risponde evocando la patrimoniale. Se no, dice, è un serpente che si morde la coda. Il documento economico e finanziario attacca la Camusso, è contraddetto dalla delega fiscale. La crescita economica è oggi la preoccupazione principale dei cittadini, è la parola crescita, quella più invocata dai responsabili della politica economica in Europa e in Italia, ma mi spingerei a dire a livello di G8 e di G20. Dalla nascita di questo governo, nel momento peggiore della crisi del debito sovrano, vediamo ogni giorno gli effetti drammatici di una crisi economica e finanziaria che si prolunga da più di 4 anni. Questa crisi sta imponendo un prezzo altissimo in termini economici, sociali, umani alle famiglie, ai giovani, ai lavoratori, alle imprese, imprese che chiudono, esperienze professionali che si interrompono, aspirazioni, quelle dei giovani italiani che non hanno lavoro, che rimangono frustrate, qualche volta vite che si chiudono nella disperazione. Sappiamo però quale sarebbe stata la disperazione se l'Italia fosse caduta nel baratro del fallimento e del default del suo debito sovrano. Il Paese, gli italiani tutti, hanno dimostrato in questi mesi una grande vitalità e una capacità di reagire uniti nel segno della responsabilità civile, sociale e istituzionale. Anche la questione tuttora aperta dei marò italiani detenuti in India è stata tema dei colloqui del titolare della Farnesina Giulio Terzi e il ministro degli esteri danese che è presidente di turno dell'Unione. È l'eurodeputata Sonia Alfano dell'Italia dei Valori, la presidente della Commissione Speciale Antimafia del Parlamento Europeo, costituita ufficialmente a Strasburgo. Un anno rinnovabile la durata del mandato della Commissione, che ha l'obiettivo di predisporre un piano di contrasto a livello europeo con la previsione di un testo unico antimafia, puntando in particolare ad aggredire i patrimoni criminali e contrastare corruzione e riciclaggio. Sarà in Gran Bretagna e Norvegia il primo viaggio all'estero di Aung San Suu Kyi. Dopo 24 anni, passati quasi del tutto in detenzione, la leader dell'opposizione birmana uscirà dal paese a giugno per la prima volta, a quanto fa sapere il suo portavoce. Eletta in Parlamento il 1 aprile, ha accettato l'invito del premier britannico David Cameron, che in visita a Rangoon le ha proposto di andare ad Oxford, dove ha studiato. L'Artico e le sue vaste riserve di idrocarburi che fanno gola a Pechino saranno al centro del viaggio in Europa che si accinge a compiere il primo ministro cinese Ben Jiabao. Ben si recherà dal 20 al 27 aprile in Islanda, Svezia, Polonia e Germania, dove visiterà la fiera industriale di Hannover. Situata lungo la rotta tra l'Europa e il Baltico, l'Islanda si afferma come paese strategico per l'accesso alle risorse minerarie della regione artica. Ci sono grandi potenziali di cooperazione nel commercio bilaterale, nella geotermia e nell'Artico, ha sottolineato questa settimana il vice ministro degli esteri Song Tao. Siamo alla cronaca, è morto il ragazzo spagnolo precipitato mentre fuggiva da una pattuglia dei carabinieri. I suoi genitori erano arrivati in Italia nel pomeriggio di ieri per stargli vicino. Nella notte, la morte. Troppo gravi le ferite riportate durante la caduta la notte precedente. Probabilmente il ragazzo, 18 anni, pensava che oltre quel muretto ci fosse un salto di circa 1 metro, un errore di valutazione dovuto forse anche all'alcol. Una notte brava, infatti, quella degli studenti spagnoli arrivati a Roma in gita scolastica. Avevano bevuto, 7 di loro sono stati trovati positivi all'alcol test, avevano cominciato a buttare oggetti contro le macchine parcheggiate. Qualcuno aveva chiamato le forze dell'ordine per farli smettere. Intorno alle 3:30 l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. I ragazzi si spaventano e comincia il fuggi-fuggi. Alcuni vengono fermati, un gruppetto invece si dirige verso la fermata della metropolitana. ma per raggiungerla c'è un muretto, quel muretto che il ragazzo ha scavalcato senza rendersi conto di quello che stava facendo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Le insegnanti erano rimaste in hotel. Nei giorni scorsi, raccontano alcuni testimoni, i ragazzi erano già stati protagonisti di altri episodi di danneggiamento. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.